Hola. Hola. Voy a mandar pues. Hola. Yeah. scappano. Scappa, non si ne riesce a cavare a chissà cosa è. Non si ne riesce proprio a tirare natura, chissà cosa. Io ci riesco, non ti preoccupare. Non prego le balle una volta, che te devo fare balle adesso. Però lasciare il patio. E qua lo stesso. Non c'è per tornare. Non è anche il microfono. Non è questione di collegamenti. C'è proprio il microfono di graziato, vero? E allora sentite, non so, non so perché, prima non faceva questo effetto qui, aveva gli effetti. Ma lo fa ogni tanto, a volte mi riduce, a volte mi va da solo, mi va. Adesso non ce l'ho. Ora. Ah, c'è che ho toccato il cazzo di baracchino. Ma se tocco l'altro baracchino non c'è più la cannata, si sente? Non è cattivo. Secondo me è un problema di schermatura, di massa. Non può essere altro. Perché se fai così non va, cioè non lo fa più, capito? È un problema proprio di cosa del genere. Qua se io tocco, faccio il microfono in mano, con la plastica, no? Con l'altra mano vado a toccare la manopola dell'FM500S, guarda. Allora vedi, è completamente diminuito. Lineare aumenta. Tema di cosa? Schermatura. Schermatura del microfono. Là. Cazzo, intendi che io ho la 28 ore, guarda, senza essere agganciato in nessun posto, quello grande. Guarda il girato. Infatti, cioè, secondo come tocchi. Ho capito che era quello. Mamma di turchi. Sto toccando, guarda, adesso va. L'alimentatore vero c'era presente, quello grande, con due strumenti. Va. Adesso è normale. Dabbè, ecco. Una cazzo non c'è. Se tocco la barba. E non è collegato in nessun posto, bello con l'alimentatore, lo staccato. Devo fare tutto da. Apri il microfono e così faccio la schermatura. Così vediamo un pochettino. Questo è molto di meno. Se tocco il baracchino qua. È quasi sparito. Ora. Poi c'è qualcosa che non lo fa quando... Aspetta che tacco l'ora, si sa delta. Neanche con questo lo fa. Lo faceva con quello lì, lo faceva. Solo esclusivamente con quello e boh. Ecco. verso questa realtà. Il 2009. Bene, esce, sì. A voglia che esce bene. Esce bene, sì. Ah, che bello che c'ho il lock, c'ho. Almeno posso parlare senza mani. Io sei contento. Ce va bene, ce va bene. Uno, due, tre. C'ho sempre un zio. Molto bene. Ah, vabbè. Me la fa l'alimentatore. Quello nero me lo sto facendo. Quello piccolino. Anche perché era cosa senza un te, come se fosse senza un te la FM500S. Ecco. Tolta la massa dell'antenna, adesso c'è. È perfetto. Come l'ha sempre fatto, per appena alternato. Sento sempre il televisore di Simona, sento. Ora no, solo qua. Ah, senti. Tutto si intende, si intende. È micidiale Salerta. Salerta, capo. Si sente? Se te lo vedo. Salerta è una cosa allucinante. Ah, che battiti del cuore, senti, Stavo dicendo, Antone, cavolo, se lo metto a manetta, adesso l'ho attaccato per non fare troppo casino di ventola, sai com'è? L'ho attaccato a un alimentatore da 5 ampere, ma anche con non c'ho tanta potenza, ma si sente che lo fa andare. Io lo so che lo fa andare, lo so. È un bel apparecchio quello, veramente bello. Anzi, molto meglio del 2009, la verità. È fatto bene, a parte che sia quasi uguale al 2009. L'unica differenza tra quello e il 2009 è che ci ho messo i 1307 come i finali, dove sono diversi. Non monta il 1969. Quelli montano un altro tipo di finali. Capito? Quei finali lì ho installati al Condes 4000 io, 1969 originale, ci ho messo il 1307, portano molto di più. Sì, si vede già che l'alimentatore lo fate andare, ma non è che abbia questa potenza eccessiva, però non lo metto al massimo io, cioè anche se lo uso così, no. Non lo pongo al massimo, lo tengo così, lo tengo. Però si vede, cavolo, che lo fate andare l'alimentatore. Adesso ci ho messo questo perché è silenzioso, non fa macello. Capito? Eppure voglio provare il 747 a vedere come va. Prova ad attaccare il 747 adesso che c'hai. Non c'è più quel donzio di ieri. Attacca 747 così, distanza, mi raccomando, un alimentatore dall'altro. Hai capito? Mettiti non molto distante, ma almeno non so parlare. Se ti crea problemi. Sì, non c'è problema. Aspetta che collego i fili, perché quelli li ho lasciati staccati. Vabbè, collega tutto, ci siamo qua tanto. Sempre pompando, sa, quel porco di Antonio, sempre pompando, sa. Aspetta. Oh, tra poco, questi lamenti che si escono le bollette astronomiche. Sì, non sarà ghiaccio, non ho il problema. Ma poco stavo facendo la pupù. Antonio. Dimmi, Antonio. Prova un po'. No, non è ancora collegato, aspetta. Ah, pensavo avevi già collegato. Ah, gente, deve andare a collegarsi da Rubizzino. Pura Ruzzi, siamo ben avanti a pompa. Che disgraziato che sei pure tu. Già ci vedo lo stesso anche a buio, ma detto vale il buco. A te, guarda a vedere. Sì, il radio è aumentato. che sia un bel basso, non ho capito chi sei. Giuseppe Leoncino. Grazie Giuseppe, gli avevo parlato io se gli anni. Arriva V5 prima, con quell'antenna, ma non è che hai preso lo stivo per sbaglio. Giuseppe Leoncino. Adesso c'è 5, vedi? Sei 9, sei qua a casa mia. Giuseppe, adesso sei 5, adesso sei normale, come si deve. Già ti ascolto bene adesso. Vabbè, comunque già ti sento. 40, com'è di segnale? Va bene? Sì, già. Non satura, no? No, adesso no. Sì, andrò bene, dai. Ebbene, Luci, ora si prendi. Caffa, è quasi Santiago 9, già va bene. Già lo grido, via. Come? Ce l'avete sentito in ditti? Gaffa, quando sono in questa casa no, non ti ho mai sentito, non ti avverto, mai, adesso, e dunque qua sei 9, là mi arrivava un po' di più, però già, devo andare, dai. Già un grido, via. Ui, erano male, modulazione mi sembra abbastanza ottima. Sembra, ok. Sei a posto adesso, a meno. Sei come intesirevi, sei. Ricordati di metterti il watt, ma tu mi hanno. Così ti regoli quanti watt c'hai dal coso, dallo smitter. Fai 5 e contro dello smitter, fai 10 contro dello smitter, quanto sale. Fai 20 contro dello smitter, così ti regoli subito. E lo sai regolare dopo, non c'è bisogno di watt, ma tu vedi niente. No, già lo so, già. Devi tenere, bisogna tenere, a questa cosa qua bisogna tenere. Devi tenere così e lui va bene. Non devi fare mancanti a pompa troppo, se no saturi la radio e non ci siamo. E infatti poi Giuseppe l'ha avuto quella gioco che c'hai tu, l'ha avuto in macchina, l'avevo modificato io. Già se ricorda Giuseppe come usciva con quel lineare modificato che c'era 50 dalla macchina, ma sembrava che non ci avesse lineare. È vero. Giuseppe. Ma lo sapevi il bicchiere 50 che ti avevo modificato? Ti ricordi il coso, il baracchino, anzi il baracchino tuo? Ti avevo dato quello mio, ti avevo dato la verità. Ma aspetta, con il bicchiere 50 come usciva quel bicchiere 50 modificato? No, questo è il 747, col finale a MOSFET. Che poi c'ha la componentistica dell'RMI Italy. Questo va bene. E a voi va bene. Monta sono 2, 4, 6 finali mi sembra monta transistor, 1307. Oh, Antone, è 747 come finale a MOSFET. Non so. Comunque già stai facendo bene, è quello dove sono problemi. Scappa, cosa coinciderebbe, meno male. Poi più in là farò il passo di prendermi quella cosa là, che mi piace, ho sempre sognato. E vabbè, piano piano, tanto fare cose piano piano, prima pensa che c'è una famiglia, ma cosa, capito? Ogni mese ti metti qualche cosa da parte per dire... Una volta che sabato è a posto e arrivi a quella cifra lì, vai e ti prendi quello che ti piace tanto, come ho fatto io. Infatti adesso c'hai un barattino con le bande laterali che va bene. Non sarà un coso, come quello che ho io, costa 500 euro dopo 15-20 anni, figurati. però a me no, cioè io comunque a parte ho avuto l'aeromotoriale del Camitri con l'FD250, mi avvalvo lì. E dovevo stare cazzo mezz'ora a farlo scaldare, poi a fargli la taratura devo stare ogni 4 ore a 20 minuti. È un auto di balle, no? L'unica cosa che c'è di buono è che l'ha filtrato. Volevo stare sempre, mi centravo su di te, volevo spostarmi con l'altro, come l'effetto di sette vitale è uguale. Capo, vabbè, cosa vuoi fare? Erano altri apparecchi, erano. Purtroppo è così. Ok, dai. Ciao Giuseppe, ci sentiamo. Ciao Giuseppe, ci sentiamo dopo. Kappa kappa. Vabbè. Adesso sono contento, capo, di. Anche ce l'ho passata, ce l'ho avuta sta apparecchio. Si sia una bomba e sia. Cioè, pompava bene, morra. Andava, guarda che una meraviglia andava. Lo so, non dillo a me. È la mia preferita quella apparecchio di la verità. Quindi d'altronde cazzo non puoi avere in casa 5 apparati e non usarli. Hai capito? Di solito io mi l'apparato così quando lo tengo fermo lo lava Giuseppe e lo usava lui a casa sua. Quindi figurati tu. Tanto per fare per usarlo se che si guastasse. Più che altro. Non so, io qua, e il mio era, cioè quello che avevamo noi pompava di brutto, cioè c'aveva il coso, c'aveva, era modificato col, ma una bestia, un apparecchio. Quando c'è soldi, prendi, lo spedisci, ti fai mettere, ti fai fare la modifica, dopo il motore, effetto Colt, eccetera, eccetera, e tanto il castigo ce l'hai già, per l'accensione dell'eco, c'è un cavetto nero, un cavetto rosso, quindi non fanno altro che collegarsi l'effetto Colt direttamente nell'impalato, e basta, non fanno altro. Vabbè, per il doppio motore non interferirà nulla, anche perché ci porti già così, di suo, quindi non c'è bisogno di avere altro. Inutile avere il doppio motore quando poi disturbi la televisione e cominci a rompere le palle. Chiedo così, in seguito, se tu vuoi qualche effetto ecco come si deve, gli aggancio esterno e va a far paura. Ci sono gli effetti ecco belli, quelli digitali. Installare la baracchina come quello che c'ha Vittorio Volpe. No, vabbè, stavo dicendo, ci sono, cioè, come si dice, no, non mi interessa, io voglio, cioè, voglio prendermi la prossima volta, mi voglio prendere, c'ho la fissazione che voglio un keyboard, mettere i soldi da parte, più in là e me lo piglio, tutto lì il discorso. Adesso basta, non è che ciò che a punirmi queste cose, capito? Ah beh, quello sì, vabbè, piano piano ti pedi le cose, tanto. Quindi non sei più a casa di papà, quindi di cosa è quella, adesso sei, c'è la tua responsabilità, ormai sei tranquillo, sei con la tua 25-50, quello che sia, e fai le cose piano piano, prima pensi alla famiglia, dopodiché, ti ho detto, da poco va, ti metti da parte un tanto ogni mese, per dire, mettiti 50 euro ogni mese da parte, dopodiché appena arrivi con la cifra lì vai e non fai altro che prenderti quell'apparato là, ce ne sono quanti ne vuoi a 300 euro, anche lui 50 lo trovi, non è che è così tanto. L'hai mercato, ce l'hai grazie a Dio, l'unica cosa devi, vabbè, ti fai l'abbinamento con quel microfono che stai usando adesso e non hai nessun bisogno di avere MX60, capito? Gappa gappa, sì, già va bene, va bene. soddisfa, dico la verità. Se metto il Kenwood qua sbatte forte, ma forte per un me. È già pompa, già, 100 volte sono quasi, quindi figurati. 100 volte sono in M50, nella me al minimo in FM, figurati tu. Io mi sono divertito con quegli apparati là, il problema è ricezione qua, solo quello, poi è stato qui dove sei tu a centro storico e c'è poco traffico, non c'è nessun casino di cavi elettrici eccetera eccetera, l'avevo tenuto, l'ho dovuto vendere per quel motivo, non ce la facevo più, non riuscivo più, cioè, per dire, in FM sentivo tutti, in AM non c'era niente da fare, qua in RM9 io non scendevi da qua, invece visto questo apparato qua, qua in RM0, costato un ecco altrettanto quello che avevo comprato tuo padre, che avevo comprato da tuo padre, con che non c'era nulla da fare, niente. 80, 140 provato, non c'è sempre lo stesso difetto qua, sempre. Con i tralicci qui non, l'unico problema che ho, perlomeno che sono tranquillo, è con l'857D, vedi, quei problemi non ce li ho, sono spariti, e sento tutti. KK, uia. Eia. E buono che... Non sono aumentato neanche un cane, ieri era pieno di gente. Ehi, a capo, dai. Ora. Mi sa che mi si stava mangiando la radio, mi si stava mangiando. Me ne ha fatto accorgere qualcuno, adesso ho abbassato un pochino. Ora. Dovrebbe andare un po' meglio adesso. Cazzo, ho pescato un bel. Ma per appena era mia, ma... Ti capivo tranquillo, non ti preoccupare per quello. E beh, Marco, adesso senti bene a... Tutti un bombo, ti hai disperato ieri sera. Sì, sono arrivato adesso, ciao Antu. Sì, adesso lo sento bene. E beh, cos'era tutto l'inghippo? Il microfono, era il microfono. Lo fa anche a me qua. Ce l'ho qua a casa. Tutto un tratto quando il 6 sono andato in affanculo, non capisco perché. E... schermatura di microfono, non di altro. Visto, una fesseria. Antu, fammi sentire questa modulazione. Scappa, hola. Hola. Ah, a vedere se vado bene. Eia, stai parlando distante dal mic, però prova a parlare vicino. Eia, prova a vedere. Forse ero un pochettino distante. Un bijou. Come batte, come sei liscio attaccato? Sembri liscio, credo, no? No, non sono liscio. Diciamo a mezza potenza, dai, 9 più 25. Quindi lì ci uscirai ancora meglio sicuramente. Buono, bella modulazione. Io mi ricordo che quello, se non sbaglio Antonella, era quello che usava Giovanna, c'aveva una modulazione splendida, anche per il femminile rende meglio con le radio. Guarda a vedere Marco, sono con la potenza sua, al massimo te, guarda a vedere. Funge Antu. Rispetto a ieri un abisso, caspita, ieri è una cosa terrificante, oggi bene, ma la potenza lì è regolabile nell'apparecchio? Gappa, adesso è al massimo della potenza, com'è? C'è per 9,25 o com'è? E 9,25, prendila per buona perché sto smitter un po'... Le differenze sono infinitesimali, capito? E quindi l'avete provato anche in banda laterale sicuramente, no? In FM l'avete provato? L'ho provato anche ieri. Cosa c'è, Simo? Ha vomitato! Il cane! Ah! Il cane! Cosa? Mamma mia, questa più sorda al cazzo dell'asino, aspetta un attimo. Ehi, vai Antone, dai. Oggi un bel sole sta facendo, è da tutto il pomeriggio. Hola. Io sto facendo roba al computer, sto trasferendo giga di dati da una parte all'altra. e quindi ZG va meglio? ZG? L'MB più va 150 attaccato con questo, con pochi watt spinge meglio, spinge? Non me ne accorgo, Anto, siamo troppo vicini, questo smitter, ci vorrebbe uno smitter di Kenwood per dare un controllo di segnale affidabile, capito? Ma dico, quando ma non si sente la saturazione, sono pochissimi watt, saturazione non ce n'è. Ma sembra di no, sembra di no. Di solito me ne accorgo quando è saturo. E quindi, buono, buono. E quello c'ha tanti canali, puoi fare DX quando viene la primavera, estate, manda laterale su canali alti. E c'è anche linea retto, l'aiutino, quindi. A voi va bene. Bisogna tenerlo così, però bisogna tenerlo. Poco ingresso e tanta resa. Adesso penso che sia 9.30, così è. Fai vedere? 9.3 prova. No, siamo sempre lì, 9.25. Sei proprio sulla stina del più. Proprio in asse con la stina verticale del più. E quello qua è da considerare un 9.25. Bene. Porca miseria che bel sole, solo che ormai è tardi, tra poco cala il sole e poi se non ti puoi muovere da liberamente, poi non ne ho capito niente, un giorno è giallo, un giorno è rosso, un giorno è arancione, stanno facendo un casino questa regolamentazione strana. Adesso tra un po', come si dice, tra un pochettino farà il tempo un po' più coso. E via. Ma la modulazione c'è un ammisso da tutti quelli che ho, vero? Hai detto la modulazione va bene. Ho detto da tutti quelli che ho, da tutti gli altri apparecchi, c'è un ammisso, c'è. Sì, guarda, i 3009 o gli Alan 87, che dentro è uguale al mio. Uguale, c'hai gli stessi controlli, volume squelch, mic gain, RF gain. Poi ci avrai manopola dell'SVR oppure della potenza, poi la manopola delle bande, la manopola dei modi di emissione e poi c'hai il fine coarse o clarifier o come si chiama. E c'è quattro levette, come questo. Solo che io il beep ce l'ho fisso, non lo posso togliere. In questa versione di apparecchio omologato è fisso. Già, io l'ho provato un pochettino in banda laterale, schicchiava, eh. Anzi, ieri avevi pure alternata. Oggi che vuoi provare veloce, visto che Antonello si è allontanato. USB, veloce, veloce. Aspetta, un attimino. Eccomi, sono la M. Luigi, ci sei? Sì, ci sono. Mi ascoltate anche qua. Qua già appena... Buono anche qua. Diciamo che la modulazione ci sei? Sarebbe abbastanza, come dire, lui è quasi uguale, in AM e FM è quasi uguale. Ricordati che di fabbrica quelli sono molto ma molto stretti, e praticamente ci avrà la LC dalla M tutto chiuso, la deviazione FM è lo stesso, tutta chiusa. Anzi, ti dirò che rispetto a una volta, più stiamo andando avanti, più questi baracchinetti nuovi omologati li fanno ancora più stretti di emissione in FM, lo sai? Lo so, ma questo l'ho preso al massimo. L'ho omologato molto tempo che però era 4 parti di casa. L'ho preso appena dalla radio, ma... Ah, ecco, ma proprio in AM di più non spinge, quindi credo che fosse di quelli moderni tipo il Midland Mini, che hanno anche la presa USB, sai, quelli di ultimissima generazione. Ok, vai Antonio, prova a rilanciare per Antonello se è rientrato. Aspetta un attimo che c'ho al telefono. Sono rientrato. Ciao Luigi, salutone. Questo è il codice 4000, quello che mi ha tutto Marco, quello che usava Giovanna. Ehi, ecco, vedi, stai uscendo forte, bello, non hai ronzii, non hai ventole, non hai voce distorta, è anche forte come modulazione. Luigi, vai per Antonello. No, è Marco, questo non è... Ogni tanto sento una scarica, sento, voi lo sentite? Allora, Antonio, no, Antonio ha detto che sente una scarica ma elettrica ogni tanto, no, qua no, deve essere un disturbo in zona tua, Antonio. Cavolo, mi è arrivato un segnale, per due volte. Boia, quella è l'escopetta che sta girando il palo, la direttiva. Mamma mia, che tempi, vai Luigi. Stavo notando una cosa Luigi, non so se dipenda da me, però per centrarti devo andare indietro di frequenza, come se fossi indietro tu di un kilohertz almeno, oppure sono avanti io di un kilohertz, non lo so. Fatto sta che spostando la sintonia grossa, diciamo, indietro, arrivi fino a 9,5. Fino a 9,5, qui eri 9 perché eri come più basso, mi, che è un po' fuori frequenza, però non ripeto, potrebbe essere da me la cosa, perché questo non è centratissimo questo baracchino, anzi poco e niente è centrato in AM. Antonio ha detto che probabilmente si è accorto anche lui di un piccolo spostamento. Antonio, hai provato tu a spostare la manopola, l'anello tondo, quello più grande, appena appena indietro, se lo senti più alto di segnale o meglio? Sì, è proprio così, lo sento più alto, sì. Vabbè, allora non è centratissimo, ma in AM è trascurabile. Tanto mi Luigia, lo sai, col clarifier io lo sposto a sinistra, quello per la ricezione, e mi fa da delta tune praticamente. E quindi non c'è problema. Il centro in ricezione, capito? Antonio, ci sei? Sono qua. Cosa devo fare invece, Marco? Nel 2009 mi sono accorto adesso, sono servato di FM, quello vecchio. Mi sento saturi. Quindi devo fare cambiare il clima della deviazione per forza. Evidentemente ossidato, non funge più. E devo cambiarlo. Dopodiché nella FM 503 se appena ti devo regolare, la verità, Marco, ma quella è una cazzata. Però nel 2009 è proprio devo spostarmi col calife grande, hai capito? Quindi devo fare la regolazione e la deviazione. Adesso in questi giorni facciamo la prova, Marco. Apro il 2009, ti faccio entrare la baracchina, un pallino FM e così mi faccio la regolazione. Eia, solo che io dovrei mettere un apparecchio centrato. Il più centrato dovrebbe essere il presidente. Ma anche i CRT vanno bene, però il presidente mi pare sia più pignolo e come centratura, come precisione. I 3009 invece sono un po' a conto loro. Per esempio in FM tutti è, adesso vi spiego, il 3009 è omologato, questo che vendeva la Proxel, no? E come spiegarvelo in due parole? Allora, in FM è strettissimo di ricezione, proprio stretto in ricezione, basta che uno abbia un poco un amplificato un po' più forte e strappa terribilmente, lo sento strappato, cioè. In più, per sentire me bene in FM, devo spostare il clarifier tutto a sinistra, perché se lo lascio in posizione centrale è come saturina, capito? Quindi hanno una centratura molto molto porchettina questi apparecchi. Sono fatti in Malesia, però gli fanno una taratura, è come che, anzi non gliene fanno taratura, li buttano fuori come capita. Vai Luigi. Solidario, però c'è il microfono che è talmente schifoso come quello che ho fatto io originale, e sembra che stai parlando dalla casa da morto, capito? Lì ci vuole un bel 1,100 m, un 10 m, mi piace, esce bene quel baracchino, perché non sa cosa va a fare. Mi sentite meglio adesso? Ti sento bene, a voglia, come poco fa. Cappa, hanno fatto andare l'alimentatore, io. Adesso ho tirato su solo il watt. Il vuoto sono il watt. Il watt dell'apparecchio, dai. Quindi sei a manetta, a 20. No, non sono ancora a manetta, ce n'è ancora un po'. Ah, già ti sento bene, a voglia, ci mancherebbe. Sì, farò, è forte, sica. Adesso stai facendo bene, vedi? No, insomma, l'M300, come ne ho tre qua di quell'M300, adesso lo sto papando. Ma questi perché spingono loro, non so neanche cosa, non mi sento, non so neanche come regolarlo. Ecco, là salgo così, non tocca nulla. Vedi che adesso va bene. Cazzo, ma quel tipo di apparecchi, purtroppo. Con il microfono ormai, sono dei lavandini, insomma, hai capito? Ne ho avuto esperienza io. Io l'unica cosa che ho avuto meme, già da San Marco. Il DM1000 è l'unico microfono che mi va bene, oppure l'M300. Gli altri tipi di microfono non funziona manco uno. Manco l'F10, non so un altro. Anche l'M93ZG comunque se la cava, dai. Il DM1000 ha più toni bassi. Quello M93 c'ha un pochino più di medi e medio alti. Quello sì, però quello che ce l'ha fa in quel forma che ho io, l'unico è, come si chiama, DM1000, ho provato l'F10, non è cavato a piedi, l'unico DM1000, perché c'è la regolazione all'interno del microfono, c'è il trimmer, posso aumentare la potenza in uscita o diminuirla, perché se io aumento talmente forte il microfono che sento l'audio in un altro parlante quando parlo, capito? Di quel tipo di apparecchio, uno dove c'è l'apparino, ha detto l'apparino, ha detto piazzati le 300 e va bene, è l'unica cosa di cui piazzare, ho detto, oppure il DM1000 e esce bene, tanto ho detto non si può sollevare gli LC per niente. Se modifichi la potenza fa schifo, perché l'ho provato io, con l'esperienza non usciva più. Quindi, cioè in AM usciva, in FM no. Ehi, copiato. Io devo staccare un po', devo terminare quelle operazioni che stavo facendo al PC. Mi devo anche stampare una cosa, un'email che mi è arrivata. E quindi rilancio per Luigi e quindi bianco per me, continuate voi, vai Luigi. Marco, aspetta, ho cambiato baracchino perché volevo cambiarne un'altra ancora, provare un altro di quelli piccolini. Va bene, datemi il tempo di cambiare il baracchino, vai Antone. Adesso sto usando l'altro, quello già è bello. Prova, già siamo qua. Quello è una cannonata, E quello è modificato, però dal bip si sente, quello costa 500 euro, costa, dopo il modulatore. No, questo è, Antone, quello che mi ascoltavate in camion, capito? Quello che avevo in camion, capito? Che modulavo dal camion, quello lì. Già me ne sono accorto, infatti, è totalmente diverso. Questo è bello, questo è bello, l'altro facevo fatica a sentirti, dovevo alzare il volume, poi però parlava pomponi e dovevo abbassare. Lo so, ma piacerebbe i baracchini buoni, solo che a volte bisogna operare dove ci sono, però tanto che riusciamo a ascoltarci, siamo qua vicino a Sassari, da ottava Sassari non c'è più. Ecco perché sto provando quelli lì, adesso ne provo un altro, ma vedete che anche quello si adatta, sempre 40 canali, adesso lo attacco anche quello. Ciucciu. C'è Antonio che sta provando sull'11, sta regolando. E mi ha messo la copia, infatti, io tu, boh, detto che di a voi c'è sull'11. Deve essere accorto anch'io. Perché stavo regolandomi i cosi, stavo regolandomi, come si dice, il watt. Adesso va a andare bene. Antonio, sei liscio adesso? Sì, con la potenza del coso. Solo l'apparato, così è? Sì. Sì, modulazione è ottima. Ottima, ottima. E il microfono cosa ci hai messo? MB4. Ah, di lusso, bene, molto bene. Dai, riprendete, bianco per me. Fra un poco rientra Luigi che sta provando un Lafayette. Sta attaccando un Lafayette. Vediamo se è entrato, Luigi. Ok, bianco per me, a dopo, ciao. Capo, perché mi sentivate nel canale appresso? Se ti metti su Luigi, sì. Beh sì, sono 10 kHz solo di differenza e attaccato, capito? Infatti ho visto che stavi, che era più basso il segnale, sei 9+20, così nudo e crudo 9+20. Ciao, no, ho chi watt e via, 9 watt dell'apparecchio. Sì, 9,5, ma la 9,25 è 9,5, sì. Lui. E 536 della Zodiac, che quello già lo conosco, c'è niente. E invece il 534 c'ha solamente la M, ma sono uguali. Hai visto, quelle se non metti le LC escono a parte di una 15 watt con l'apparecchio, se basta giocare con la bobina. Te lo sto dicendo, lì c'è le bobine, ce ne sono tre, una è verticale e le altre sono tutte orizzontali. Se li allarghi, le stringi, ti da 15 watt con l'apparato lì, poi attaccato al trasformatore rosso c'è un trimmer, giri quello e c'è l'LC a manetta. Aspetta che io stavo facendo un'alternata e c'è il microfono che non ho già qualche difetto, anche il suo originale, però da tanti anni io non l'accendo questa cosa. Ah, si è cambiato parecchio. Già andai già. Ma non ravento beh. No, non lo so, la verità non te lo so dire. Tutta l'antenna mi cogendi, tutta l'antenna. E io scendi giù a recuperare qualche pezzo. Sì, che non attacchi così, no? Ha pigliato una cotturata da lì, che poi qua è micidiale il posto. Ha pigliato una cotturata che era una bellezza. Non fa niente, non fa niente. Andiamo a rimettere a posto antenne di televisione a conto ciucucciù. Tu porti la punta, io mi porto il trappolo e la tua punta. E poi facciamo ci mettiamo i tasselli dentro. Il problema è, Antone, il problema è che che magari se l'avrei messo non è quale strappa che vengono i nocchi, ne ha parlato tutto. Vabbè, quanto tu hai testato bene l'antenna adesso, poi in seguito se ritieni di tenere quella con la casa ti metti le staffe come si deve, capito? Quindi ti chiederei, tu magari ti capita l'occasione di un appartamento bello vicino a casa mia e da lì te lo fai e te ne vieni qua in alto. Non te ne date né no. No, Antonio, ho cantato le parecchie. E prova lui. Vedi questo, vabbè, il microfono sono davvero sempre lo stesso, io non è che sto cambiato, come va questo? 25, radio 5. Ma la radio è buona? Sì. C'è il bici, no? No. Adesso c'è il bici? Sì, adesso sì. Così, guarda ancora, proviamo a provare questo. Adesso l'ho preso a 5 watt. Si nota. Così a manettone. E qua c'è Santiago 9, radio 5. Sai che c'entro oggi il coso attaccato? C'è il 5 watt e portate il mio. Ce va bene già. Vediamo un po'. Vabbè, sono 22, 24, 26, 26, dico però è fichi. Cioè, va bene, a voglia. Scappa, l'ho regolato su per giù a 10 watt, Antonè. Così già mi basta a me. A voglia. Questo l'ho sistemato perché l'ha comprato